Radio. Rock Wave, l'onda del rock. 22 e 6 minuti, ben trovati, buona serata. Apriamo, Maurizio, apriamo il nostro locale virtuale anche questa sera con Rock Wave, la versione live del mercoledì. Live, a volte ce ne sono anche negli altri giorni della settimana, però il giorno clou, la serata clou è proprio il mercoledì, quella storica, diciamo. Allora, Maurizio, questa sera chi abbiamo con noi? Stasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Stasera abbiamo il Moon, che è un gruppo che viene da Cemona del Friuli, però stasera è venuto qua, sono solo in due dei quattro, come rappresentanza, possiamo dire questo, voi Moon. Ci presentiamo Charles e Spino, l'asse portante. Hello. le chitarre. Ciao a tutti i radioascoltatori. Esatto. E poi abbiamo Dan e Piotre che ci stanno ascoltando via internet a Gemona, probabilmente. E che salutiamo a casa. Ciao Dan, ciao Piotre. Ciao Piotre. Bene, The Moon, formazione in quattro, quindi chitarre, basso e batteria. L'idea di chitarre, basso e batteria, com'è nata, ragazzi? Ma in realtà è abbastanza tradizionale, diciamo, nei gruppi rock. Esatto. Per cui abbiamo soltanto trasformato le nostre emozioni in musica, usando strumenti che alla fine hanno sempre affascinato. E quali siamo da sempre legati, insomma. Esatto. Esattamente. Quindi, musicalmente, come vi siete costituiti? Dove siete nati? Il progetto? Com'è l'idea di fare una band? Ma in realtà è nata scrivendo delle canzoni in camera. Da te? Esatto, a casa mia, nella mia camera. Stai parlando Spino adesso. Ovviamente, buonasera. Ciao Spino, salutiamo Spino dalla radio. Ciao Spino. A tutti. Dopo queste idee, alla fine mi sono piaciute, nel senso avrei voluto più elaborare in una band o comunque farle conoscere in giro. Ho deciso di appunto formare una band. In realtà ci sono state molte cose che ci hanno unito oltre alla mia voglia, tipo io e Carlo ci siamo conosciuti in una stagione estiva a Lignano e facevamo i barman in due hotel che erano praticamente fino uno allo sputo dall'altro. Dopo... Quindi vicinissimi, no? E ancora vestiti da barman, quindi in gilet e camicia bianca, prendevamo la nostra chitarra acustica, andavamo sul lungomare e intrattenevamo... The Deutschland People con, hai capito Sergio? The Deutschland con delle People. Canzoni dei Beatles. Bene, e ad Hamburgo si sa che negli anni 60-61, gli anni che furono, sì, sono andati anche loro ad intrattenere i Deutsch People. Qui ci siamo divertiti moltissimo. Ma questa collaborazione, esatto, così, ci ha unito, abbiamo cominciato a cantare insieme e abbiamo riformato una band che io in realtà avevo lasciato un anno prima per andare a Londra. Go to the England. Ah, tu sei stato a Londra qualche... Sono stato a Londra un anno. Hai respirato l'aria allora? Sì, diciamo di sì. Musicalmente parlando, indubbiamente, esatto. Hai respirato l'aria. E qualche critico giustamente ha scritto che la vostra è una British rock friulana, mi pare giusto. Cioè, l'attinenza... Sì, penso sia una bella cosa. Anche le influenze, insomma, si sta capendo, no? Sì. Ci piace quel genere di musica, ci piace essere diretti... anche abbastanza spinti nei ritmi, nei giri di chitarre. E sì, io e Sergio, che io ho sentito il disco, l'ho sentito più di una volta, Sergio l'ha sentito da poco, e abbiamo avuto questa impressione molto piacevole, molto accattivante, prende immediatamente atmosfere, sì, melodie che prendono immediatamente, quello è importante, perché fare un pezzo, fare un disco, fare essere una canzone, diretti, quello che... bisogna fare anche una canzone con l'idea che deve prendere, che deve captare le coscienze, le conoscenze degli altri. Cosa dici? Devi immaginarti poi che comunque c'è un pezzo, non è che nasce e va così subito in porto. Insomma, dietro c'è un lavoro di gruppo, ci si lavora sopra. Però diciamo che la nostra forza è da ascoltarlo con gli accordi, a percepirlo in modo diretto, come dicevi tu, in pochissimo tempo, e riuscire a elaborarlo e comunque a suonarlo nel giro di una prova a nostro miglior modo. Esatto, in giro di una prova siete stati bravi, nel giro di una prova solamente. Sì, ma in realtà se la sintonia si crea, secondo me la sola prova è l'anima del gruppo, dove non serve parlare, quando si suona alla fine basta, si sente che l'emozione e l'energia che c'è dentro è condivisibile tra tutti, e soprattutto quando si fa una canzone nuova e ci si guarda e si vuole riprovarla subito, è uno dei motivi per cui si suona. Infatti ha detto bene, a volte bastano insomma degli sguardi, no, per capirsi, per intendersi, se no insomma l'accordo viene subito. Sì. l'accordo musicale. Certamente. Cosa dici, Sergio? Cominciamo ad aprire la finestra. Apriamo la finestra. Apriamo la finestra. Suonano loro pezzo, oppure fa caldo, fa freddo. No, wow, si sta benissimo. Il caldo giusto stasera, perché freddo, sì. È un freddo notevole fuori. Però apriamo la finestra. Come direbbero in Inghilterra, fuck Aldo. Ecco, appunto. Ok, allora iniziamo con la prima Aldo. Traccia. Andiamo con il disco, allora, con la prima traccia del disco di The Moon. Rock Wave, l'onda del rock. Del rock. Rose in the Land of Tears, la prima traccia del disco di The Moon, lo ricordiamo, che si intitola Lunatics. Maurizio, allora abbiamo sentito il primo pezzo, è un primo pezzo molto importante. Perché? Perché c'è stato un video molto interessante, fatto bene, con una certa predisposizione. Ma io a microfono spento parlavamo con i ragazzi, il primo accordo di chitarra mi ricordava qualcosa del Prisley Underground, quindi fine anni 60, inizio anni 70, americano, il Rain Parade. Dopo chiaramente il discorso cambia, però all'inizio era così. E anche alla fine questo muro di chitarra, qua ragazzi, sì, cari ascoltatori, abbiamo i due chitarristi qui presenti, questo muro di chitarre alla fine quasi psichedelico, questo finale decisamente, questa solista che tira il pezzo, è indice di qualcosa, di che cosa ragazzi? Che cosa, l'idea, com'è nata di questo pezzo, perché l'avete sviluppato, poi che nell'interno del pezzo stesso c'è la melodia, questo è importante. Ma in realtà penso che emerga un po' quello che a noi piace ascoltare, però alla fine non ci sono riferimenti proprio diretti a qualche gruppo, per cui anche il paragone che tu hai fatto con il gruppo di adesso, onestamente io non l'ho mai ascoltato, però probabilmente è una condivisione di un genere che alla fine può non avere età. Certo, certo, giustamente non può non avere età. Io ho avuto questa impressione, chiaramente poi il pezzo è vostro, lo sviluppo è vostro, però questi input qualche volta capita di sentire delle cose che poi dare, che ricostruire, prendere un collegamento lontano che poi si sviluppa adesso. Quindi parlatemi un po' del video, dell'idea del video che avete fatto. Il video l'abbiamo fatto in collaborazione con due filmmakers gemonesi, che sono due giovani ragazzi che sono appassionati di video amatoriali, che però compiono le loro videoregistrazioni con grandissima professionalità e padronanza di strumenti, non solo quelli delle telecamere ma anche quelli dell'editing del video, quindi anche con il computer, così insomma sono molto afferrati e molto bravi. Con loro c'è stata alla fine, guarda, se devo essere onesto, dimmi. L'idea del video è nata un pomeriggio in un negozio dove lavoravo un po' di tempo fa, in cui il movimento non era molto impegnativo. E ascoltando la canzone mi sono venute un paio di idee. Ho cominciato a scrivere su un block notes dietro la scrivania, dietro la cassa, un po' di idee che alla fine in due ore e mezza si sono concluse. Mi immaginavo questo video e intanto scrivevo le idee. Ho presentato le idee al gruppo e il gruppo ne ha messe di altre. Certo. Per cui abbiamo pensato, le idee abbiamo avute praticamente quasi tutte noi e le abbiamo espresse a questi ragazzi, che sono stati, diciamo, quasi dei geni a interpretarle come noi le avevamo in testa. E alla fine della situazione il video è stata una specie di sposalizio tra sintonie che alla fine un po' si sono sentite vicine come idee, modo di pensare, nella modalità di realizzazione, comunque come visuale tra canzone e impatto visivo. Certo, giusto, giusto. Perché comunque il video amplifica molto la sensazione che può dare la canzone ascoltandola magari in un momento di relax. Sì, è una canzone che prende immediatamente, è molto accattivante, è godibile nel senso anche positivo del termine, è una melodia, la melodia c'è nel centro del pezzo, poi chiaramente all'inizio e alla fine no, però questo non vuol dire assolutamente nulla, è la melodia che traina, il pezzo è stato trainato. Mi pare che sia anche un singolo questo che avete deciso di farlo. Sì, diciamo che è il nostro pezzo forte che lancia. Dal vivo come lo fate? Lo fate nel modo che si sente nel disco, come nel disco, esattamente. Sì. Belle chitarre. Cioè, ci sono due chitarre, ci sono due voci. Ci sono due voci, c'è un basso e c'è una batteria. Così l'abbiamo registrato senza tante. Belle chitarre distorte anche alla fine, no? Sì, certo. Mi pare giusto. Questa sera siamo con le chitarre acustiche. Beh, tu ci vedi, sì, ma magari a casa non sanno che abbiamo le chitarre acustiche qua con noi. Ovviamente sì, dal vivo è tutto in elettrico. Tutto in elettrico e anche ben sostenuto. Come sì. Sì. Deve essere così, in ogni caso. L'idea è partita da quello. La tensione, la forza nella canzone c'è, non è sicuramente da sminuire. Anche se però suonare in acustico non è che sminuisce secondo me il pezzo, anche lo rafforza, perché suonare in acustico è sempre più difficile. A volte può esaltare. Esattamente. Vedi Jeff Buckley, quindi quando suonavi i suoi pezzi. E poi dipende anche dalle canzoni, no? Quali si prestano a essere. Alla e quali anche sono tutte chi state le suona scritte, riesce a interpretarle. Dimmi. Le nostre canzoni sono tutte state scritte con chitarra acustica e voce dopo. Sempre questo l'hai scritto, hai detto, in casa tua, in una stanza di casa praticamente. Casa mia, dopo lui a casa sua. Comunque canzoni da camera fatte uscire dal guscio. Certo, Sergio si è sempre provato, si è sempre costruito le canzoni nelle camere praticamente. O nelle stanze, cantine. Nelle cantine. Sì. O nei garage, possiamo dire questo. Una volta si usavano i garage, ma con buona pace. Si è scoperta che l'acustica è anche nelle cantine. Con buona pace dei vicini, soprattutto. Beh, anche qua. Nelle vicini. Friuli meglio però, secondo me. Ah sì? Dici? Le cantine danno un notevole sviluppo ai friulani. Infatti ne abbiamo imparato bene, insomma. Sì, esattamente. Una bella cosa. Allora, adesso facciamo una cosa molto semplice, suoniamo il primo pezzo per cominciare la cavalcata acustico. Va bene. Ok, allora io direi di fare Are You Alright? Sì. Ok, benissimo. Volevo dedicarlo a Valentina e Theodor. Benissimo. D'accordo? Ok. Quando Are volete. Right? Prego. Ale. These days have gone in love with you. you alright? Are you alright? Are you alright? Are you alright? Please don't forget my dreams on a table. What I do, I can't see forever what I say in love with you. Are you alright? Are you alright? Are you alright? Are you alright? Are you alright? Are you alright? Are you alright? Are you alright? Please don't forget my dreams on the table. What I do, I can't see forever what I said in love with you. Are you alright? Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Gli anni 60, assolutamente. Rock and roll. Rock and roll. Yeah. Pezzo molto godibile, questo rincorrersi delle voci, volutamente una che rincorre l'altra, è decisamente un impasto, cioè un modo architettato bene, positivo secondo me. Cosa dite? Siete d'accordo? Siamo d'accordo, alla fine a noi è venuto molto naturale, nel senso che abbiamo provato a prove, in realtà ha una settimana questa canzone, a noi ci piace suonarla perché in realtà ci resta molto in testa, resta molto in testa chi l'ascolta, addirittura ci hanno fatto un paragone con una situazione che accadeva agli Abbey Road Studios con un gruppo, c'era il portiere, sì, che stava al di fuori da questi studi, no? E il gruppo che provava la canzone dentro. Allora, in inglese si chiama The Old Great Whistle Test, no? Che è il vecchio portiere, grande test del fischiare. Sì. E questo portiere, praticamente, quando ascoltava una bella canzone, si metteva a fischiettarla e la band sapeva che decideva di metterla come nel disco o come che sarebbe stata una canzone valida, quando apriva la porta e sentiva questo vecchietto che fischiettava la loro canzone. Aveva fatto presa. Esatto. Grandissimo. Ci siamo trovati una volta, appunto, a suonare questa canzone, c'era questo altro ragazzo, peraltro inglese, sì, non molto, insomma, molto detto vecchietto. Non era vecchietto, però, no, infatti, insomma, fischiettava e dopo ci ha raccontato questo bellissimo aneddoto. Aneddoto napoletano, era napoletano, voglio la cemona. Quindi praticamente questo è una cosa molto positiva, cioè il vecchietto praticamente dava l'indice, dava se il pezzo andava bene, lui lo fischiava e quindi vuol dire che era positivo. Questo è il motivo per cui noi andiamo in giro per strada con le chitarre e cantiamo i nostri pezzi ad ogni vecchietto che incontriamo. Ecco, siete dei basker, cioè, a limite, possiamo dire questo, ma è una cosa molto bella, positiva. In Inghilterra e negli altri paesi si fa spesso e volentieri questo, sì, in Italia un po' meno, perché non c'è l'abitudine, non c'è l'idea. È un po' vietato da qualche parte. Dimmi, scusami. Da qualche parte è un po' vietato. Sì, esattamente, è vietato, esattamente. Però non c'è l'abitudine, non c'è l'idea, non c'è la condizione, non c'è il modo di fare. È un'altra cosa, non importa. In ogni caso andiamo avanti lo stesso. Abbiamo sentito questo pezzo molto, come abbiamo detto, accattivante, prende immediatamente. Pochi accordi, ma quelli giusti. Rock and roll. Rock and roll. Ci sono tre accordi, rock and roll. Sì. Ci sono tre accordi. Non lo sapevo. Però insomma, sì, sono quelli definitivi, questi tre accordi. Beh, bastano per fare questo. Mamma mia, bastano. Si continua a fare musica. Appunto, da sempre praticamente. Da Elvis in su o da Elvis in giù, a seconda dei punti di vista. Sì. Esattamente. Elvis è un punto di riferimento. Da sempre Elvis è un punto. Cosa dici, Sergio? Elvis è un punto di riferimento. Beh, ovvio. Ovviamente. Senza Elvis non sarebbe nato niente. E qualcuno dice, ma neanche senza i Beatles, però. Anche se i Beatles sono un po' derivativo, però, di Elvis. Diciamo che Elvis è il papà e Beatles la mamma. Ecco, può darsi che sia anche vero questo. Sicuramente Elvis è il papà. Il papà al 100%, c'è poco da fare. Dimmi, non sei d'accordo, Sergio? No, sì, sono confermato. E come? Io non sono. Avevo anche il microfono chiuso, guarda già. Perfetto. Vai tranquillo. Adesso non voglio ascoltare la mia opinione. Ok, abbiamo sentito allora questo pezzo dal vivo. Vorrei sapere una cosa. Sì. Il disco si chiama Lunatics. come mai si chiama Lunatics? Beh, dove è partita l'idea? Allora, ma così cioè, è andata. Beh, un po' per assonanza col nome The Moon, che vuol dire luna, sì, in esatto, inglese. Un po' per il significato, sì, che può avere in due lingue. Esatto, italiano e friulano. Però boh, in friulano dopo è voluto, comunque è passato in inglese. Cioè, in Lunatics, italiano. Ma che stai a dire? Pasqua. Esatto, e alla fine cioè, ti piaceva un po' questa idea di lunatico, nel senso di un po' di fuori dai confini. Esatto, esatto. Senza determinati, cioè abbastanza allargato. Fuori da, esatto, no? Fuori, cioè, esattamente. L'immaginario che dà la parola, senza tante spiegazioni, e comunque la affinità col nome della band. Perfetto, quindi The Moon Lunatics. E che fatica c'è stata per incidere un album autoprodotto come il vostro? Tanta. Ma alla fine non è fatica, è ma anche soddisfazione è passione, di vederlo. Cioè, la passione è, alla fine sono cose che ti appagano man mano che le realizzi, no? Un po' pensi a come fare, torni a casa, rielabori, torni lì, torni a registrare. Comunque sì, tutto questo ti occupa tempo e anche magari un po' di denaro. Quindi anche un po', sì. Quindi è una ma cosa ne vale che, la pena? Ma ne sì, vale la pena, soprattutto quando dopo ottieni anche risultati e riscontri positivi da parte delle tue persone. Tipo suonare a Blu Radio Veneto, magari. Esatto. Esatto. No, anche queste cose qua sono sicuramente cose che ti stimolano sempre a andare avanti e suonare e comunque a crederci. Sì, quando la gente conosce i vostri pezzi, una bellissima cosa, sì, secondo me, una cosa sì, meravigliosa. Beh, pensa che dimmi, abbiamo parlato prima del video. Sì. È uscito qualche mese fa, è stato trasmesso su TG1 Notte, musica vedi, telegiornale, e noi non, ovviamente non lo sapevamo, e la gente ci fermava per strada e ci diceva, abbiamo sentito Rosa, e noi, ma cosa stai dicendo, insomma, Pasqua? Allora, che dici, no? E così, era no? Vero. E, insomma... Cioè, per noi è stato emozionante, insomma. Certo, un'emozione fortissima. Direi proprio, sì. Bello, sì, bello. Sì. Decisamente. Cioè, una cosa no, che viene conosciuta così, una cosa creata nella stanzetta, si diceva prima. A proposito, è fantastico. Io voglio di sapere il discorso. Della stanzetta, ma tutti i pezzi, Spino e Charles, li creati nella stanzetta? Cioè, per creare un pezzo, mi dicevi prima, questo era nato in quel la momento realtà, là. Sì, in realtà stanzetta... Stanzetta per dire a casa? Sì, insomma. No, stanzetta è la stanzetta, però per fare comunque, per rendere l'idea sì, di una tua intimità tra con la musica e te. Comunque una specie di situazione che tu crei in cui non pensi al tempo o a cosa devi far dopo, cosa hai fatto prima o comunque una sintonia in cui tu ti trovi libero di esprimere quello che pensi o quello che provi, e a volte funziona, a volte magari no, però... Quando non funziona gli altri della band cosa ti dicono? Non ci piace? Mi oppure... dice l'amico fa cagare. Perfetto. E a me piace la sincerità, quindi lo apprezzo. Certo, certo, quindi ti taglia se non è... Ma i pezzi li scrivi tutti te oppure li scrivete assieme? Ma in realtà, te e Charles? Ma io scrivo un po' di pezzi, e anche Charles scrive dei pezzi. E Dan e Piotr cosa fanno? Fanno gli arrangiamenti. La gran parte degli arrangiamenti un po' strumentali o tempistici. E comunque danno il loro notevole contributo, anche perché insomma esatto, siamo tutti che suoniamo da un sacco idee, di tempo, esatto, quindi molte idee che si uniscono, perché la canzone arriva di scarna con due accordi e una melodia vocale. E qua ho notato che Piotr fa un sacco di stop and go nei vostri pezzi, cioè da notevole sviluppo, da notevole grinta, che era la forza ritmica, il basso e la batteria è fondamentale, no? Quindi anche quello è indice di qualcosa, chiaramente. Ok, andiamo avanti, sentiamo un altro pezzo da disco. Sergio, cosa dici? La traccia numero 2, si intitola Summer. Rock Wave, l'onda del rock. Yeah. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ma tu hai sentito che giro che aveva sta canzone? Bello, sentito bello. Che roba. Un ottimo giro, un ottimo sì, giro. Sì, sì, sì. Summer Day the Moon. Un po' panchettaro, secondo me, in alcuni momenti. Cosa dite? Ma a momenti ci vuole il punk. Ci vuole il punk, fa bene alla salute. Un punk melodico, tra virgolette, possiamo dire questo. È esatto. Punk, 3 minuti, 2,50, 2,70, 3 minuti il massimo dei gruppi punk. Davano tutto subito, però che forza, beh, che infatti energia. Infatti se vedi anche nella nostra copertina, le nostre tracce superano sì. di poco i 3 minuti. Esattamente. Insomma. Non siete punk, però... E giustamente la potenza ci vuole. Questo era un pezzo potente, insomma. Un bel giro, come giustamente ha detto Sergio, il giro iniziale di chitarra. E poi Piotr che dà proprio lo stimolo, che dà proprio l'input. Magico Piotr, Piotr dà proprio il ritmo giusto per portare avanti il discorso musicale del pezzo. E poi, noi parlavamo a microfono spenti, cari ascoltatori, c'era l'impasto vocale. C'è sempre la melodia che viene fuori, bene o male, anche nel momento più pesante del pezzo, la melodia viene sempre fuori. È fondamentale. Un po' di dolcezza, insomma, ci vuole, no? Cioè, l'incastro vocale è fondamentale per la vostra band, è una vostra caratteristica, mi pare. So se siete d'accordo. Sì, ovviamente noi cerchiamo di comunque mantenere una melodia ricordabile. Esatto, hai detto una cosa giusta, la melodia è ricordabile, è vero Sergio? Melodia ricordabile è fondamentale. Perché? Perché la gente deve recepirlo, deve ricordarselo, deve cantarlo, è quello. Perché se è un po' più difficile, sì, se lo può ricordare, però se lo canta è meglio. Non è così? Sì, se lo suona ancora meglio. Se lo suona ancora meglio. Se la canta e se la suona. Esatto. Benissimo, benissimo. E Summer come è nata? L'hai scritta te? Sì, l'ho scritta io dopo, questa non mi ricordo. È un'estate o così Summer? Ma non mi ricordo bene che tempo facesse, però mi ricordo che avevo tipo provato da un'ora una canzone che non mi soddisfava, ecco, mi sono stufato e mi sono disteso sul letto con la chitarra sulla pancia e ho cominciato a fare questi accordi e a cantare in inglese maccheronico una melodia che alla fine mi ha subito colpito e poi mi ha dato l'input per dimenticare immediatamente la canzone di prima e cominciare a scrivere questa. È buona la prima di solito oppure no? C'è qualche variazione? Quando è nato questo pezzo l'hai presentata agli altri che sono stati subito soddisfatti, l'hanno apprezzata. È buona la prima? Cioè quando siete entrati in studio l'avete subito suonato oppure ci sono stati dei mescolamenti? Sono stati un po' di copia e incolla, taglia e cuci. Ok, taglia i cuci. Esatto. Ma il discorso, tu parlavi anche dal punto di vista economico, quando si va in studio bisogna avere tutte le idee chiare immediatamente. Esatto. Perché sennò il tempo corre e i soldi corrono. E infatti le prove insomma servono a questo, sennò cioè, bisogna provare le cose, bisogna dirsi le cose in faccia, provare una canzone, provarla dentro, insomma, e se va bene a tutti e quattro allora insomma si può iniziare a ragionarci sopra e... iniziare a portarla alle sue massime capacità. Certo. No? Vi ha dato una mano qualcuno in studio di registrazione per fare il pezzo? O'clock, cioè nessuno. Alle 9 di sera. Ma dipende, cioè sulla struttura della canzone, no, magari con i suoni qualcosa ci hanno consigliato che alla fine. Ma il fonico dello studio, sì, però ti ha dato una mano. È stato utile. Però diciamo sulla più che altro su qualche suono, ma sull'impostazione totale è vostra praticamente. Chiaro, insomma, le cose da soli non si fanno mai, se no non succederebbe proprio niente. Quindi insomma sì. C'è stata una collaborazione, possiamo dire questo. Sì, una presunta collaborazione. Un accorgimento, cose, ha sistemato certi momenti. Cose mutuali, insomma scambi di idee. Una sintonia alla fine. Sì, che... sì, sempre, è tutta lì la musica, no? Se alla a te Massimo ti prende un pezzo, vuol dire che entriamo in sintonia con quello che stiamo suonando noi, che è quello che vogliamo trasmetterti e che tu speri o no di recepire. Insomma, se lo recepisci va bene, vuol dire che siamo in sintonia. Certo, certo. E così anche registrando stiamo sempre parlando di musica, quindi insomma... anche con chi ti sta dietro al vetro, come qua Sergio, insomma deve esserci una sintonia, no? Sennò... ecco con chi ci sta ascoltando stasera. Esatto, quindi anche per registrare in studio un album, se non c'è la sintonia, insomma il pezzo comunque non riesce a... non gira, non gira. Esatto, non ha deve girare assolutamente per portarlo avanti. Deve decollare, giustamente. Adesso decolliamo ancora, 22:38. Decolliamo quasi... Spino. Quasi 22:39, adesso suoniamo. Che cosa, ragazzi? Che pezzo suonate? Ma facciamo un pezzo che Sul disco non c'è, però è un inedito per noi praticamente. È il nostro dancing opening dal vivo. Bene. Sentite la Orange. Ok. Stasera Rock Wave Live abbiamo i The Moon da quel DJ Mona del Friuli che ci hanno appena proposto Orange, mi pare, giusto? Sì, sì, esattamente. Sì, sì. Orange non ha qualche attinenza, no, solo dal punto di vista etico con XTC Orange, te lo ricordi? Lemon and Orange, un disco di XTC, una raccolta di singoli famosi. Beh, XTC è un gruppo fondamentale del Britpop britannico. Non sono vecchi come te. Non sono vecchi come me. Non si ricordano, magari. Perché, no, però, ma però andremo ad ascoltarlo. Dovete sentire gli XTC, che sì. I nuovi Beatles li hanno sempre etichettati nel senso positivo del termine. In ogni caso, questo era un pezzo molto bello perché mi piace molto i vostri impasti vocali. È fondamentale. Come lo fate con le chitarre elettriche un pezzo simile? Poi alla fine era una specie di jam session, vero Sergio? Finale. Sì, sì, sì. Dà proprio vigore, impulsivo. Diciamo che davvero un po' difficile perché avendo suoni elettrici un po'. Non si crea questo calore, si perde un po' la pastosità, esatto. No, delle armonie. Comunque che si questa cosa così diretta in cui riusciamo a sentirci proprio come se uno stesse suonando quello, la cosa dell'altro. Però diciamo che con un po' di esperienza, con una buona esagerazione di volume in spia, di dinamiche anche, esatto, ce la facciamo. Ecco, vedi. Però stasera l'avete fatta benissimo. Questo, a parte un po' di raucedine, raffreddore. Beh, causata sono dal... cose della stagione. Sono cose della vita. Sì. Sono cose della vita, come diceva il Buon Venditti un po' di tempo fa, molto tempo fa. Però è bello. Ramazzotti, mi pare. Sì, anche Ramazzotti. Anche Venditti. Cioè, Ramazzotti non quello della Marla. No, per carità. Anche Venditti, un po' prima di Ramazzotti. Vabbè, non c'è nessun problema, abbiamo citato due cantautori importanti. E adesso parliamo della musica vostra, che è importante anche questa. Quindi a me è piaciuto molto, ripeto, questo giro finale, questa accelerazione, Ma avevate già studiato questo movimento oppure è una cosa che avete fatto spontaneamente adesso stasera? Ma no, in realtà è nata così, però ci è piaciuta e la teniamo. Bene, bene, sempre. È piaciuta anche a noi, quindi la dovete tenere per forza. Allora funziona. Funziona, sì. È, come, è il fischio, io ho sentito il fischio, non ho fischiato. Come si diceva prima, no? Ecco appunto. Tutto torna. Benissimo. Round and round. Bene. 22:44, siamo assolutamente tutti in diretta, abbiamo parlato, stiamo parlando con IMU. E tutti in orario, non come i treni. questo è vero. Vabbè, sarebbe un problema da discutere oggigiorno, quello dei treni, dell'orario, della puntualità oggi, della radio. Adesso oggi c'era brutto tempo, avevano difficoltà anche loro, praticamente. Sì, dici. Più o meno. Come dalle parti vostre il tempo. Esatto. Va. In che senso? Se scorre più lento? Ma no. Da me adesso sono già le 12:40 del giorno dopo. Ma un po' come qua. Sì, vento, fresco. Più ventoso, montagnoso, nevoso, però... Tutti. Esatto. Vabbè. Diciamo che l'inverno c'è un po' dappertutto. Certo, certo. E c'è anche un bel sole, no? Proprio caldo, canotta. Ma soprattutto una bella luna. Appunto. Un bel the moon. The moon. All right. Benissimo, adesso parliamo ancora, sì, abbiamo parlato di come è nato questo, questo quando l'hai scritto questo pezzo, qualche giorno fa oppure... Orange. Orange. Ma è stato uno dei primi in realtà. Ah, non è una cosa recente allora. No, una cosa, diciamo, di vecchia data che però piace sempre suonarla, è uno dei motivi per cui... ci piace suonare dal vivo, comunque riproporla sempre. E perché non è nel disco? Come mai? Perché abbiamo dovuto fare una selezione in realtà tra pezzi che un po' più ci piacevano, un po' più si abbinavano, un po' più secondo noi erano... adatti a essere messi su disco. Emblema del nostro. Ma la scaletta l'avete scelta voi? Cioè avete deciso voi che pezzi mettere nel disco? Sì, tutti e quattro così si provano le canzoni che appunto sono più... portate a essere messe su disco, perché appunto non tutte le canzoni vanno bene fatte su disco, come magari non tutte le canzoni vanno bene fatte dal vivo, no? Certo, certo. Dipende. Ma dal vivo, mi avevate detto prima che le proponete quasi uguali almeno. Sì, ma sì, non sì. C'è qualche variazione, qualche volta? Però magari volta. Dopo col tempo... No, col tempo. Sì. Io non so, ad ogni occasione insomma la canzone potrebbe essere nuova. Potrebbe cambiare. No. Sì. Non totalmente. No, dico non essere stravolta completamente, sì. Però insomma ogni imprevisto del caso, insomma, sì. No. Beh. Ogni canzone può capitare. È unica, insomma. Sì, certamente. Ok, ok. Suoniamo ancora qualcosa, dai. Che cosa? Suoniamo ancora qualcosa? Sì. Dopo facciamo un altro pezzo da disco. Ok, allora adesso potremmo... Perché il live di Rockway ha questa caratteristica. Far suonare la band, i gruppi, hai capito? Come piace a noi. Già, suonare è la cosa meravigliosa, la cosa più importante di una band. È proprio l'immagine, la fotografia della band. Vi proporremmo una delle prime canzoni che abbiamo scritto. Si intitola Standing in the Sky, è una... Qui io sono particolarmente affezionato perché è una delle... La prima, se non la seconda canzone che ho scritto nella stanzetta. E tu avrai una carriera molto lunga sicuramente, quindi non c'è problema. Ok. Illusion is mine. You never give love to me. Standing in the sky, you never feel so. You're running on, you're running out. Come and go, come and go, savior. Lay a sleeper. Come and go. God. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Maurizio. Bella questa. Sì. Molto sì, bella. Sì, questa è stata la apripista per noi della nostra redazione. Abbiamo scelto io e Alberto Prisco, che è il nostro direttore artistico, che ringraziamo, che stasera vi ha voluto qua fortissimamente, e ha fatto bene, assolutamente. Abbiamo scelto questo pezzo perché secondo noi ci piaceva, lasciava subito una bella ballad, e è andato in onda dalla nostra emittente, una cosa molto positiva secondo me. Ma ci fa molto piacere, ovviamente. Bella, abbiamo scelto questa, ci è piaciuta subito, anche tutto l'album, però questa particolarmente, sai, c'è sempre un piacere di più da un pezzo all'altro, è una cosa umana, è logica. È inevitabile, però questa è una bella costruzione. Dicevi che è una canzone che ha una certa età, musicalmente parlando, insomma, l'hai scritta un po' di tempo fa, forse è la prima che hai scritto. Sì, fa un po' di tempo, però però ancora fresca, godibile. Sì, sì. Sono sempre, ogni volta mi dà... Ti dà sensazioni. Esatto. E anche chi ti sente è d'accordo con te sicuramente. Questo mi fa piacere, anche perché vuol dire che funziona quello che... Alla fine io ho fischiato stavolta. Provavo io. Tu questo... Non hai sentito il fischio, ma hai fischiato. Vedi, sempre di più. Vuol dire che c'è un collegamento con l'ascoltatore, chi suona. Sì. È la cosa fondamentale in una band. Cioè, perché quando vengono scritti i pezzi, se non c'è un collegamento, se la gente che ascolta non è soddisfatta, vuol dire che qualcosa non funziona. Quindi si deve ritentare di proporre, di mettere a posto. E non ma è soprattutto, facile. Prima di tutto, deve piacere a noi, perché se non piace a noi è inutile che facciamo qualcosa... Giusto per il piacere degli altri. Sì, non la prima sentireste tutto... Esatto. I primi ad essere soddisfatti dobbiamo essere noi. Dopo, se piace anche agli altri va bene, ma prima di tutto contano le nostre emozioni e le nostre reazioni. Certo. Giusto, è una cosa... Sì, è d'accordo anche lui. Sì, infatti ho colto... Applauso. Grande Charles. All right. Anche Piotr e Dan saranno d'accordo. Sì, sicuro. Sicuro. Che senza la loro collaborazione non ci sarebbe niente. La funzione di Piotr e Dan sono il basso e Piotr è la batteria. Voi siete le chitarre, Dan anche uccide maiali. Dimmi. No, il Dan, volevo ricordare che anche uccide maiali il Dan. Ah, suona al basso e uccide maiali. E così si presenta. Sì, stringendo la mano. È vero, perfetto. Metto in dubbio. Insomma, questo. Che importanza ha avuto la sezione ritmica per voi, cioè il basso e la batteria nel vostro muro di chitarre? Beh, no, nella prima canzone sono i motori di tutto della nostra musica, e ovviamente ciò che tengono su il palcoscenico, diciamo, delle nostre canzoni. E infatti, ringraziamo, se senti... appunto, che comunque c'è un'intesa speciale sia tra loro due, e tra noi e loro, è una cosa che alla fine semplicemente funziona, non si sa bene. Ti ha creato Lunatics, esatto. È una cosa bella, ripetiamo. Incidere un disco da una band emergente è sempre una cosa positiva, è sempre una vittoria, c'è poco da fare, al di là di tutto, al di là delle difficoltà economiche, tutto quello che volete, sono state superate alla grande. Incidere un disco fa sentire che c'è un disco da parte fatto da voi, che si può trovare, poi spiegheremo dove si può trovare il vostro disco. È una cosa decisamente sempre molto positiva, a me, secondo me. 22, 53 e 43 secondi. Adesso, yes. Sergio, cosa dici? Un altro pezzo da disco? Mettiamo la traccia numero 3, che si intitola Take Care. Rockwave, l'onda del rock. Oh, Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Allora, Blu Radio Veneto all'interno di Rock Wave Live. Questa sera siamo in compagnia dei The Moon, un gruppo friulano. Abbiamo appena sentito la loro terza traccia del disco, Take Care, era il titolo del brano, Maurizio. Sì, un bel pugno allo stomaco, Sergio. Sì, sì, sì, due minuti secchi così di cattiveria. Di cattiveria punk. Di energia. Ciao, vorrei citare il Piotr quando in una intervista televisiva alla domanda qual è la vostra droga rispose rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll per quattro volte consecutive. Penso che sia questo il... L'hanno internato. Sì, no. Figuriamoci, insomma, è rock and roll, siamo un po' tutti nati con il rock and roll. Grandissimo, sì, sì. Sì, può avere tirate punk, sicuramente è una canzone molto spinta, però insomma la base è rock and roll. Certo. Da qua non si scappa. Beh, spinta, quindi dal vivo la fate con molta energia, chiaramente. Eh sì, sì, sì. Il Piotr si dà da fare. Il Piotr ci dà, come sempre, il Piotr è dei nostri. Benissimo. Quindi punk e rock and roll. Salutiamo anche Nicoletta, che ama molto anche lei il rock and roll. Ci sta sentendo adesso stasera. Ciao Nicoletta, benissimo. Buon rock and roll. Hello. Buon rock and roll. Assolutamente. Happy new rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Esatto. Bene, quindi una traccia brevissima, come ha detto Sergio, giustamente, immediata, perché il rock and roll è anche immediatezza. Sì. Poche battute, ma subito, che entrano subito in circolo. Mi pare giusto, mi pare essenziale, assolutamente. È quello che poi fece il punk, riprendere rock and roll, no? I Ramones hanno insegnato a tutti come si fa il punk. E cosa fanno? Solo un po' di rock and roll, un po' più veloce, no? Più grintoso, rabbioso, così. Dimmi. Erano proprio punk. Erano loro, hanno inventato, sì, giustamente non erano forse punk, però certe cose no. Esattamente, erano un po' diversi dal punk, però hanno inventato il modo di suonarle in una certa maniera, anche se possiamo citare i Clash, Sergio. Esatto, insomma, Clash. Comunque sempre rock and roll. Ma i Clash? Non ci si scappa, dall'original punk non ci si scappa. Ognuno ha avuto il suo modo un po' di interpretarlo, comunque abbastanza distinguendolo dalle basi. Sì, sì, sì, no, quello sì, quello sì. Secondo me, no? A proposito di Clash, di Ramones, questa è l'ora canonica per fare il giochetto. I 5 dischi da portare su un'isola deserta. Io ce l'ho facile. 5 da portare su un'isola deserta. Dobbiamo tener conto di una cosa. Album o singoli, no? Album. Ah, sì, esatto, sì, giusto, sì, giusto. Vabbè, sì. E una cosa molto semplice, non si può copiare. Quindi ognuno che dice, non so, 5 dischi... Ah, ma perché andiamo sull'isola assieme? Certo. Allora no, che portate le cose... Non voglio andare sull'isola io con... Ovviamente... Dimmi. 5 dischi dei Moon, perché alla fine... Esattamente. Li consumerai tutti ascoltandoli. Quindi tocca Charles o Spino, chi inizia? Inizio io. Vai Charles, dai. Allora, salutiamo anche il tuo accompagnatore. Sì, salutiamo Gardo, alias Gardo. Che qua di lui, Padova, sì, sì, mi ha accompagnato stasera. Sì, sì, sì, il nostro amico Gardo. Benissimo, il nostro cicerone. Anche ospitato. E riempito lo stomaco. Il bicchiere e lo stomaco. Benissimo. Ok, vai. No, in realtà solo lo stomaco. È un po'... Dopo facciamo... Abbiamo della miserissima acqua. Noi abbiamo l'acqua. Vabbè. Sì, no, ma infatti va giù a garganelle. Va bene, serve bene, l'acqua è essenziale. Vai. Può dire Gargamel. Allora. Gargamel. Io sono un estremista fanatico pronto a morire assolutamente per la musica dei Beatles. Mm. Potrei farmi esplodere da qualche parte, convinto che la musica dei Beatles sia la musica migliore che sia mai stata prodotta. Per cui un disco sicuramente dei Beatles, dopo aver detto tutto questo. Quale? Almeno uno. Sembrava una... Pensavo a Rolling Stones. Ma Dio, non so, se mi uso la deserta non ci si può fare esplodere. Io porterei via un cofanetto che però, insomma, 5 dischi. Ma oggi abbiamo le chiavette, non metto tutto su una chiavetta. Lo so, mi ma non tutti... è più romantica, la carina è romantica. Capito, va bene. Allora, Abbey Road, Let It Be, Revolver sono sicuramente 3 dischi che avrò con me. Rispettivamente del 1970, la colonna sonora di Let It Be, nel 1969 Abbey Road, quello famosissimo Camminano sulle strisce, certo, varie leggende, e Revolver, quello che inizia un po' il periodo psichedelico, vi ricordate la copertina, tutto in bianco e nero, questi capelli lunghissimi, una giungla dove escono altri loro, tutti molto più piccoli da fotografia. Poi, poi ne tanti altri da scegliere. Cioè, tu hai scelto tre dischi, però io... Sì, dei Beatles, sì, ovviamente. Dei Beatles, però come fossero un disco solo dei Beatles, praticamente. Beh no, allora no, li metto dentro tutti e 13, perché sennò... Sì. Poi? Poi potrei portarmi anche Regatta de Blanc, de Police. Ullala. London Calling, dei Clash. Come mai... dobbiamo estrapolare, allargare. Come mai hai scelto Regatta de Blanc, dei Police? Il reg rock, perché c'è Walking on the Moon e da insomma, che è io sono nei The Moon. Non è ispirato niente, assolutamente. Non voglio dire questo, non ci sono conflitti di musicabilità o di nomi. No, beh, mi piace quell'album, direi anche quello essenziale, sono in tre addirittura. Belle melodie, diretto abbastanza, ecco, panchettone, ecco, si sente qualcosa nel fondo? Sì, dei Saggio, passi arriva Laura di Disting. Yes. Ci voleva. Sì. Vai, Charles, dopo. E poi un altro. Quanti sono i dischi? Sono già 5, 70. Beh, no, scherzi, 12 più altri. Mi sono già portato una valigia. Cosa avevo detto? I Clash. The Clash. Clash. Cosa di Clash? The Clash. The Clash, vabbè. O London Calling. Sì, ma poi ci ho cambiato idea, adesso dico The Clash. The Clash. Perché dietro c'è una bellissima fotografia dove sono loro... Cioè, dove non si sa se sono loro, probabilmente tutti che scappano dalla polizia, un riot di quelli seri degli anni 70, insomma. Eccoli. Appunto, però, da London Calling. London Calling, sì, questo è London Calling. Bene, tocca a te, Pino, scusa. Onestamente posso rispondere con non lo so. Come non lo so? Troppa roba, no, troppa roba. Ogni disco che penso alla fine lo porterei. Cioè, posso riassumere alla fine, cioè, nella mia carriera di ascoltatore. Dai qualche input. I miei gruppi dai. Preferiti sono stati Guns N' Roses. Fermati un secondo, come mai? Devo domandarti come mai Guns N' Roses. Ho conosciuto la chitarra elettrica, suono della chitarra elettrica da loro. Loro album. Esattamente. Appetite for Destruction o qualche altro? Appetite for Destruction. Poi sicuramente Nirvana, Utero oppure Nevermind. Dipende dal periodo, dagli stati d'animo. Dai stati d'animo. Sai che è stato ripubblicato non da tempo, qualche mese fa, un'edizione deluxe di Nevermind con un sacco di outlegs e tante altre cosette aggiunte. In Francia sono usciti per una settimana articoli sui quotidiani, mentre in Italia invece insomma tutti se ne fregavano. E non so. Sì, no, c'è stato qualche trafiletto. C'è stato qualcosa, sì, dai. Però, così il paragone... Senza voler rubare l'elenco dei 5 dischi preferiti da Spino. Alzo gli occhi così. Sì, però insomma, dall'altra parte hanno dato più peso a questo... Beh, ci sono stati i giornali che hanno parlato di... No, dico sui quotidiani. Ah, sui quotidiani, no. Sui quotidiani, insomma, per una settimana intera, insomma, si è parlato di questa ricorrenza del... Insomma, erano più amati di un forse disco in Francia che non in Italia, probabilmente. Sì che... Ma anche in Italia, insomma, era abbastanza... Loro... Sono loro. Quando entrano dentro vai, chi tocca sono? Ancora a te, vai. Allora abbiamo citato i Nirvana, dai. Dopo? Poi mi porterei adesso, magari non per proprio perché mi piace alla follia, però mi piace l'atmosfera che regala un po' questo calore. Questo calore mezzo country, mezzo inverno del sud di Johnny Cash. Ecco, l'uomo in nero. L'uomo in nero, come mai hai scelto Johnny Cash? Johnny Cash perché l'hai risentito con i famosi 4 album prodotti da Rick Rubin, oppure Johnny Cash lo conoscevi prima? Ma lo conosco in realtà... 4, 5 scusate. Lo conosco, però sì, l'ho scoperto ascoltando le canzoni di le più famose che alla fine mi hanno comunque... Man in Black è solo lui, Sì, mi hanno regalato bei momenti di ascolto e... Anche comunque dopo quando sono andato a guardare i video mi piace la sua semplicità nel non volere esagerare, ma alla fine dando comunque... Hai detto una cosa giusta, la sua semplicità, nonostante che era un nome tutelare. Ma lì c'è passione effettivamente. Esatto. E poi dobbiamo ricordarlo, abbiamo già ricordato parecchie volte, però stasera è felice ricordarlo, è giusto ricordarlo, One degli U2, lo stesso Bono ha detto, no. Lui la suona è stata quasi più bella quella di esatto, la suona meglio, la canta meglio veramente lui, veramente che non io, diceva Bono, se l'ha detto Bono che l'ha scritta, vuol dire che Johnny Cash è arrivato a un punto altissimo delle cose. Esatto, un nome incredibile, perché se in realtà i compositori non sempre sono in grado di dare un giudizio sui pezzi di far riuscire bene la musica. Sto pensando magari a qualche compositore di musica classica del Novecento Se li metti sul podio a volte fanno delle grandissime cagate anche con i loro pezzi. Ho capito. Uno tra i pochi compositori e direttori delle sue musiche è Stravinsky, che in realtà non sempre, però spesso e volentieri riesce a dare il meglio di sé nelle sue canzoni, cosa che non è scontata, perché non sempre i migliori esecutori delle proprie canzoni sono i propri compositori. Sì, questo hai ragione. Quando però senti One cantata da Johnny Cash, capisci? No, d'accordo, ma no, infatti voglio proprio dire questo. Sì, no? Okay. Non sempre chi compone la musica è sempre la persona più adatta a interpretarla. Will it make it easier on you now? You got someone to blame. È pelle d'oca, ecco. Sì. Voce che quando canta lui c'è poco da fare. Che quasi la parla, direi. È vero, sì, è quasi la recita. La recita, la narra. Sì. Vai, Spino, tocca ancora a te. Ovviamente. Elvis Presley. Ah, Elvis. Perché alla fine. Tutto è nato da lui, abbiamo già detto un sacco di volte, ma lo ripetiamo. A me non stufano mai le sue canzoni. E ne ha fatti tante ne ha fatte, di tanti tipi, di tanti percorsi. E soprattutto tuttora oggi quando vedo magari i suoi video, quelle cose mi trasmettono quelle cose che ogni tanto al giorno d'oggi, vedendo un po' come sta andando la musica, non riesci più a prendere, no? Al volo. Quella emozione, quel lampo, che alla fine dici, che figata. Eh sì, lui emozionava, cioè sapeva emozionare la gente. Anche se all'inizio emozionava con le sue armi, all'inizio proprio ha dato una scossone totale, esatto, alla musica, che all'inizio non era così, era un po' diversa. Poi lui è riuscito proprio a dare una evoluzione totale, un cambiamento epocale. È stato Elvis. Senza di Elvis non c'era niente da fare. È così, bello sia così. Tutti dobbiamo ricordare Elvis, dal primo all'ultimo, dai grandi dopo Elvis, ma Elvis è stato il padre putativo di tutto. Qualcuno dice anche Dylan. Sì, d'accordo, Dylan in un certo versante, però se non c'era Elvis non c'era neanche Dylan. Siamo sempre là. E poi, Spino? E poi una compilation divisa in due tra Beatles e Oasis. Ah, ecco, gli Oasis, un gruppo che amate particolarmente, però amate dal punto di vista così idilliaco, non propriamente, no? Voi non suonate Oasis, suonate la vostra musica e basta. Tutti vi hanno avvicinato agli Oasis, forse per le sonorità, per gli accoppiamenti, per certe atmosfere, ma basta, chiuso il discorso, secondo me. Ma sì, alla fine noi non... è quello, credo. Cioè, le nostre canzoni sono molto, sono, diciamo, un po' più dirette, sono meno elaborate o un po' studiate a tavolino, cioè sono più dirette e semplici come impatto e... ovviamente a noi fa piacere il paragone, però sì, certo, fa piacere normalmente. Noi alla fine siamo The Moon. Esatto, siete The Moon e i fratelli Gallagher sono i fratelli Gallagher, anche se adesso non esistono più come Oasis, purtroppo, secondo me, perché, ma forse loro l'hanno anche fatto, insomma, è il bello anche del alla fine una band può dire di aver fatto tutto solo quando si è sciolta, no? Sì, perché sì. Sono un po' tristi, no? Non trovi quelle cose che continuano ad andare avanti un po' così forzatamente, insomma, dopo un po' la magia si spegne. Non c'è più, insomma. Si spegne. Però io ho un rimpianto, Sergio, che gli Oasis si sono sciolti, perché... No, d'accordo, rimpianto il discorso, però se questo. Fossero... Vabbè, non è che le cose che sono uscite dopo, il fratello che ha pubblicato, insomma... Continua, insomma, sì, la continua. Traccia è quella. Però lo so, però vedi l'etichetta, non l'etichetta, ma non è neanche il marchio. Le atmosfere fatte degli Oasis assieme sono una cosa, le atmosfere fatte degli Oasis divisi sì. Secondo me è un'altra chiaro, cosa. Non collaborano più, non hanno quegli stimoli che si scambiavano vicendevolmente. E le baruffe anche quei cazzotti, hanno deciso di non lavorare più assieme. I cazzotti, le baruffe continue, anche quello serviva. Aeree distrutte. Serviva anche quello. Sì. Ok, abbiamo finito? Forse no, c'è ancora uno, un altro titolo devi scegliere. Ancora uno? Sì, facciamo il quinto. In realtà ne hai già detti 10 e ti sta fregando. Vabbè, facciamo un altro, dai. Dai un altro su. Ah, tu devi scegliere. Sì. 7. Ma no, del disco. Del disco. No, parlava dei dischi da del portare disco, su. Infatti adesso internet. Stiamo contando, come? Porterei un disco vuoto per Castellina Pasi e andiamo a sentire un'altra canzone. Io porterei anche il vecchio portiere che mi faccia Great Always the Test. Così portavi anche la chitarra e dopo vediamo cosa dice, insomma. Il vecchio portiere. Se no ascoltare la musica da soli è un po', insomma, una rogna, cioè ci vuole anche qualcun altro. Se no, insomma, deve essere un'isola deserta, però sì. una noce di cocco. A proposito di ascoltare la musica da soli, sì, avete qualche data, qualche concerto che farete nei prossimi? Sì, proprio qua in Veneto è questa settimana, quindi possiamo lanciare, certo, cosa dite? Lanciamo un invito? Certo, dove, vogliamo ricordare dove siamo? Dove siamo? Insomma, al primo piano? Se no non lancio niente siamo, io. Qua siamo terra. Allora si può lanciare tutto. Allora, questo venerdì Eila, questo venerdì è la battuta per il la cocco, battuta. Cocco, occhio al cocco. A Martellago, al Mattone. C'è questo ristorante, questa siamo pub. Ospiti di un contest musicale e suoneremo per ultimi, ma la serata comunque inizierà come è solito. Vari band, vari show. Cominciarsi verso le 10. Sì, sì. C'erano tre band di cui noi ospiti. Bene. In un contest hai detto praticamente. Ma Martellago. Sì, Martellago è vicino a Venezia. Sì, sì, sì. Vicino di Venezia. E poi sì, nel weekend saremo su Telecapodistria, ospiti del programma FS Inferno di Andrea F. Ma Telecapodistria. Esatto. Grandissima, mamma mia. Mamma mia. Suonate dal vivo là? Com'è? È una specie di presentazione della band con un'intervista con qualche simpatico sketch da non perdere, diciamo, e presentazione del vivo. Ah, ho capito, ho capito. La band a completo che sì. Bene, interessante. E un'altra cosa che vi devo chiedere è questa: se uno vuole fisicamente il vostro disco, come deve fare? Ovviamente venire a concerti come prima cosa, altrimenti ci può contattare nei social network, comunque sono Facebook, YouTube, MySpace, sempre /Bar The Moon Rock Band. Rock Band, sì. E per cui ci trova... diciamo 10 minuti. Ho visto che siete infatti su MySpace, che ultimamente era andato anche un po' Reverb Nation, però... o qualcosa di più attinente alla musica, sì, alla musica. Ma siamo su vari, comunque abbiamo social network, cioè chi ci vuole alla fine ci trova in infatti modo nell'altro. C'è sempre il panchetto da poi abbiamo anche il link comunque su YouTube, che appunto se si digita Rose in the Land of Tears si trova sotto la finestra del video il link per comprare, volendo anche online, su Music, iTunes, il nostro disco, i nostri singoli pezzi. Certo, certo, benissimo. Ok, sentiamo un altro pezzo da disco allora che abbiamo scelto. La traccia, ti ricordi che traccia? È la numero 4. La 4. I Just Wanna Fly. L'abbiamo già sentita la 4? No, la 4 dobbiamo scegliere ancora. Ah, allora facciamo la 4. La 4. Yes. Standing in the Sky. Abbiamo... Rockwave, l'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Siamo a buon punto, Maurizio. Sì. 11 e un quarto passate con i The Moon questa sera a Rock Wave Live. Sì, abbiamo sentito questo pezzo che avete già chiaramente eseguito live qualche minuto prima, ripetendo giustamente che questo è un pezzo accattivante, una bella ballad, prende immediatamente, abbiamo scelta come apripista del disco e ci è molto piaciuto e secondo me piace immediatamente senza tanti giri di parole. Sì, esatto, gli accordi essenziali e comunque è una delle due delle poche canzoni che comunque ha un suo impatto sia in versione elettrica che in versione acustica, che comunque un'elettrica abbastanza contenuta, però sì, è pezzo. Una cosa, però diciamo anche senza batteria e basso ha il suo effetto diciamo un po' più rilassante, certamente, comunque certamente. Ha delle melodie nostre più riuscite secondo noi. Sì, che traccia numero 4 mi pare è quasi al centro del discorso, che sono 10 le tracce, quindi quasi alla metà, volutamente alla metà oppure così fatta così. Ma in realtà era un pezzo che comunque doveva essere tra le prime canzoni per comunque riuscire a dare alla persona che l'ascolta subito l'idea di chi, come siete, esatto, come gli impasti avete, pezzi vocali. Vogliamo, dopo alla fine all'interno di un disco ci sono canzoni magari più belle, canzoni meno belle, canzoni un po' che magari vengono un po' lasciate anche stare, comunque quelle belle sono belle, quelle brutte servono a far vedere che ce n'è anche belle. Però cioè, può capitare che qualche canzone brutta che viene lasciata nel cassetto per motivi diversi può essere ripresa un po' di tempo dopo, diventare più bella o interessante, non più brutta, o no? Ovviamente sì, è capitato, è capitato. Capitato? Di solito quando non funzionano, magari me le ricanto qualche volta o al lavoro o sotto la doccia, così. Ma al lavoro puoi cantarle, sì, al lavoro. Ma le canto anche se non parlo, me le canto in testa. Ah, ho capito. A certi momenti ho bisogno di questi spazi. Facendo Esatto, magari davanti a qualche cliente, sai. Non vale la pena, vale la pena. E alla fine, non è che pretendo che vengano fatte, anzi, apprezzo il fatto che comunque, cioè io voglio che tutti i componenti della band siano d'accordo su quello che si suona e che anche se secondo me una canzone magari può funzionare, se solo un elemento della band non è convinto o non prova quello che bisogna provare mentre la suona, secondo me non è da fare. Ho capito, cioè se sui quattro, tre sono d'accordo e il quarto non è d'accordo, anche se gli altri sono d'accordo, tu stoppi, ci fermiamo e facciamo un altro discorso, o meglio riprendiamo il pezzo in una certa maniera. Mi pare giusto, democrazia al 100%, Sergio, cosa dici? Ovvio. Mi pare... Sì, alla fine perché comunque una cosa funziona quando direttamente ti prende, se uno cerca di farsela piacere alla fine ci sono già fin troppe cose che magari uno si cerca di far piacere, no? Nella quotidianità e in certe esperienze che si fanno e quella cosa che alla fine secondo me è pura e semplice come deve essere diretta e comunque avvolgerti. Ti faccio questa domanda adesso, che spesso e volentieri facciamo a tutti qui, vengono a suonare da noi. Avete difficoltà a trovare le date, cioè gli locali, i posti, amano la gente che suona dal vivo come voi, ma pezzi originali loro proprio oppure no, oppure... tirano un po' il naso. È toccato un tasto un po' dolente. Adesso cerchiamo di sviluppare questo tasto dolente. Tutti quanti hanno questo problema, però mentre all'estero questo problema non c'è, c'è solo in Italia. Bah, onestamente è un tasto dolente, però diciamo che noi non ci facciamo scoraggiare, perché comunque inviamo, spediamo, facciamo sentire e diciamo che i live non ci sono mai mancati. La cosa che comunque ci farebbe ovviamente più piacere è suonare nei posti proprio adatti, dedicati a queste cose, dove comunque le persone stanno attente o vengono, hanno comunque una recepiscono quello che succede dal palco, no? O magari vengono lì apposta per sentire la musica anche se magari non la conoscono. Il trucco di cui magari si parla anche tra di noi è che comunque se un gruppo è molto conosciuto e molto famoso, ovviamente è più facile per il locale anche spendere più soldi per chiamarlo sapendo già che avrà un ritorno, sì. mentre che spendere magari 300-200 euro per chiamare una band locale e magari non essere sicuro che avrà metà pieno è un po' rischioso, ma è per puro per, cioè, la cosa che alla fine dimostra questo è che la popolarità, no, dà un po' l'importanza alla band. Non è un bene, perché alla fine tanta gente adesso va magari a vedere concerti solo di gente che è famosa, anzi forse è una pecca di questo periodo, anche magari non piacendoli, ma solo perché è famosa ci va al concerto. Sì, sì, sì. Secondo me quelle cose lì sono ci sono stato, per dire, ci sono stato. Sì, sono un po' ingannevoli, no? Sì, sì, sì. Però, quindi parla più la popolarità che non la musica, quando invece in certi casi dovrebbe essere sì, il contrario, sì, no? Sì. Diciamo che per i gruppi emergenti l'importante è lottare per cercare di fare quel salto, che da lì ti porta là. Non è facile, nessuno sa come si fa, perché sennò non saremmo tutti qua a lottare. A lottare, però se succede può essere una bella soddisfazione, o comunque ogni concerto e ogni disco deve essere sempre suonato al 100%, a prescindere dalla situazione in cui ti trovi, secondo me. Sì, sempre, sempre con una certa predisposizione. Però succede sempre esclusivamente, almeno in Italia, perché all'estero noi abbiamo ospitato tantissima gente che ha suonato, anche all'estero. Girati poi il microfono. Ah, esattamente. Ecco, esattamente. Oh, buono. Che noi abbiamo ospitato tante band nel corso di 6 anni che facciamo questi live, e quando sono andati all'estero è una cosa positiva che hanno suonato la loro musica. O in italiano o in inglese, non vuol dire la loro musica, non le cover band. Non esiste all'estero. Certi locali all'estero non amano le cover band, vogliono la musica proprio della band che viene a suonare. È una cosa molto positiva questa. In Italia questo non succede, non funziona. O succede raramente, insomma, non proprio non demonizziamo così. Ci no, sono sì, anche o succede raramente, succede raramente. Ci sono anche le persone che appunto vogliono ascoltare della musica nuova o suonata da persone che magari appunto non conoscono, ma hanno la possibilità di conoscere e apprezzare. Però è vero quello che dici tu, insomma, in generale, generalmente è più apprezzato, tra virgolette, forse per questioni economiche. Sì, certo. Di quanta persone ti porta quella data band che fa musica X. Tu sì. Suoni da noi, se ci porti, che ne so, 30, almeno 30 persone, almeno in Italia. Sì, no, questi discorsi sono proprio utilitaristici, non hanno nulla a che vedere con la musica. Eh sì, questo è vero, hai ragione, però capita. Forse bisognerebbe cambiare i posti dove si suona. Bisogna avere un'idea. Che non sono neanche tanti. No, forse alla anche fine a me mi vengono delle idee, tipo quando alle volte mi capita di aspettare nelle sale di attesa, anche degli aeroporti, dove c'è tantissima gente che non sa cosa fare per un'ora. E dico, ma perché non mettono una band qua che alla fine intratterrebbe, magari presterebbe attenzione, perché vedi tanta gente che guarda nel vuoto per un'ora senza... Sì. Con l'ansia di magari potrebbe anche rilassare qualcuno prima del volo, no? E secondo me sarebbero posti interessanti dove suonare, anche perché noi suonando per strada ci accorgiamo che comunque la musica fatta in un posto in cui la gente non se l'aspetta attira di più, cattura di più l'attenzione. Quando una persona gira l'angolo e si vede due persone con la chitarra che suonano per strada, magari fuori da un negozio dove tutti magari sono intenti a fare spesa o fare i fatti loro, cioè dà un impatto diverso, in cui la gente magari si ferma, ti ascolta, gli piace e magari ti lancia un euro nel cappello, e alla fine quell'euro è il simbolo di mi hai dato qualcosa. Io e la mia ragazza 2 o 3 anni fa ci siamo fermati per strada a Rimini, mi pare, o Riccione, non mi ricordo, a sentire una piccola band fatta da 13, 15, 16 anni, che ne so. Pensa a te, cioè, in piena notte, mezzanotte, l'1 cos'era, però erano bravi, ci siamo fermati volentieri. E infatti quello è alla fine... Lo spirito che penso intendessi tu, insomma. Esatto, sì. Il fatto che ti ricordi di questa cosa, che nella tua giornata è capitata questa cosa che te l'ha caratterizzata in qualche modo, no? Sì. Eh sì, succede proprio questo. Purtroppo in Italia succede poco, sarebbe positivo se succedesse di più. Ma non c'è l'idea, non c'è la possibilità, non c'è la cognizione di causa. Non c'è la mentalità, esatto, per fare non questo. C'è la mentalità. Mi sa, all'estero è molto più semplice, meno difficile. Capita spesso e volentieri, come abbiamo detto parecchie volte. Bisognerebbe forse anche cambiare le persone più che la mentalità. Ma sì, ma capita che all'estero che una gente prende la chitarra, suona e la gente si ferma, chiede. Io ricordo che una band... sempre all'estero, ma per caso è andato in un locale, ha cominciato a suonare e la gente del locale, era negli Stati Uniti, la gente del locale, un promoter di un altro locale, gli ha subito contattati, gli ha subito dato le date per qualche altro giorno in un altro locale, senza nessun problema. Ma infatti sì, non si pongono tanto problema, appunto anche quando siamo stati ospiti di in un'altra radio la scorsa settimana, questo conduttore che era inglese comunque mi ha detto no, sì, anche alla fine l'inglese ci sta, perché alla fine la mentalità inglese è quella comunque di recepire la cosa immediata e di non farsi tanti problemi sul testo, sull'emozione, sulla cosa, se tu hai detto una cosa, cioè la musica in sé, no? Se hai detto una cosa importantissima che nessuno mai è riuscito a dire, mentre in Italia si cerca un po' più questa cosa, no? Che il testo, il significato, sai, così. Sì. Violini, per carità, niente da dire. Ai nostri giorni ci sono tanti gruppi che comunque piace cantare un po' il malessere sociale, il disagio. Noi invece preferiamo la melodia che più divertente, più spensierata, più. Sì, alla fine anche magari quella no, musica che ti trascina via con sé, ti fa dimenticare tutto, esatto, quello che è di male puoi aver vissuto, non te la descrive, sì. Ti rapisce, insomma, e ti porta sulla luna. Sulla luna, appunto. Adesso suoniamo qualcosa, allora, a proposito di portarci sulla luna. Che cosa, ragazzi? Ma facciamo un altro pezzo che possiamo suonare dal vivo, ma non è sul disco, si intitola If Today Comes. Ok. Are you ready? Yeah. I am like a dog living in this time. You really got me now. If today comes, I'm like the fog living in this time. You really got me now. If today comes. If today comes, if today comes, if today comes, if today comes, if today comes, if today comes, if today comes, if today comes, let my heart go. L'onda del rock. L'ultima mezz'ora insieme a The Moon qui su Blu Radio Veneto, Maurizio. Sì, un pezzo semplice ma efficace, efficace al 100%. Era il ritornello che mi piaceva immediatamente. Avete scelto un ritornello, avete l'idea di questo ritornello e immediatamente... Titolo che del brano che fa anche andare il ritornello in un certo senso. Esattamente, sì. È entrato subito dentro nel circolo, secondo me. Spino, cosa dici? Dico che indubbiamente hai ragione. No, alla fine sono pezzi che ci piacciono e... Noi ne scriviamo tanti, dopo alla fine la scegliete la scaletta, ma si sceglie da sé, perché alla fine quello che ci piace suonare facciamo e in base a quello ci mettiamo d'accordo su cosa fare i concerti. Queste qua è una delle canzoni che comunque ci piace suonare dal vivo e ha un bel impatto, soprattutto perché si diverte noi sul palco. Dopo la gente capisce questa cosa, però a noi ci piace. La può cantare abbastanza facilmente, la può ripetere chiaramente. E ha un impatto musicale semplice, ma molto di presa immediata. Volevo chiedere questo. Prima di fondare i Moon, tu hai parlato di qualche esperimento con altre band che avevi avuto, qualche conoscenza con altre. Avevi fatto qualcosina prima? Ma in realtà ho suonato in una cover band quando avevo 14 anni e per cominciare ovviamente... Cover band di cosa? Cover band facevamo da un po' i gruppi che mi portavo nell'isola deserta, no, dischi, un po' Oasis, un po' Guns, un po' Nirvana, però io suonavo solo la chitarra, non cantavo, anzi cantavo una canzone solo che era Should I Stay or Should I Go dei Clash. Dei Clash, vedi caso, bellissima. Quindi cantavi su un pezzo solo, suonavi la chitarra praticamente. Esatto. C'era un cantante allora nella band. Poi ho suonato in un gruppo che si chiamava Vertigine. Musicalmente cosa parava? Dove parava il Vertigine? Il Vertigine era una specie di punk rock con testi all'italiana. È stato abbastanza apprezzato anche perché ai tempi siamo andati su Help, Roxy Bar, programmi di Red Ronnie. E, dopo poi per esigenze diverse, comunque uno matura di più, uno la pensa diversamente, cose così, siamo sciolti. Comunque è stata sicuramente una delle esperienze che mi ha più cambiato la vita, perché mi ha fatto suonare tantissimo in giro e mi ha insegnato comunque a poter fare la musica mia, nel senso di scrivere pezzi, se possibile. E cantavi in questo band? In questa band non cantavo, però diciamo che gli arrangiamenti delle canzoni tra chitarra, chitarre, il resto un po', erano gran parte del cantante mio, più il cantante scrivendo i testi e le canzoni proprio. Comunque un po' mi ha fatto, ho capito da questa esperienza come una canzone... Può stare in piedi, o l'emozione che deve dare quando la suoni. Benissimo. E tu, Charles, hai avuto delle frequentazioni prima dei Moon? Sì, chiaro. Come vorrei ricordare il nome anche degli altri due componenti, che insomma anche gli altri hanno avuto formazione e esperienze precedenti. E probabilmente quando avevamo tutti i 15 anni ci siamo anche incrociati qualche volta fuori dalle sale prove o anche in qualche gruppetto così estemporaneo in cui appunto si facevano le prime prove. Anche io ho avuto altri gruppi, si inizia sempre ovviamente con le cover, ma le cover devono essere una base d'appoggio, no? Sulla quale puoi lanciarsi, per cui poi assieme ad un altro gruppo in cui già compariva il Piotre, che all'epoca suonava il basso. Non suonava la batteria all'epoca del Piotre? In realtà il Piotre suona un po' tutto, perché il Piotre è il Piotre. Canta anche? Anche canta, sì. Benissimo. E quindi insomma abbiamo anche noi iniziato a fare musica nostra, e così insomma poi ognuno prende la sua strada, ci si rincontra e eccoci qua. Ma la scena di Gemona del Friuli è una scena vivace musicalmente parlando, secondo me? Ovviamente sì. Mancano un po' i posti giusti dove suonare. Comunque la cosa che ci piace da coraggio è che più mancano i posti e più la gente non presta attenzione e più noi abbiamo voglia di suonare. Ah, vero. Chiaro, ho capito. Cioè, è più prestare attenzione alla gente, hai detto una cosa giusta. E tu hai parlato dei locali, di posti dove suonare. Li contatti te, fai tutto te? Tu o gli altri? In realtà adesso, dopo che il nostro video è andato su su Rock TV e TG1 Notte, boh, delle capodiste, queste cose qua. Qualcuno si è un po' avvicinato a noi, che è un po' giro di locali, concerti, che un po' più ci fanno... ci mettono in evidenza, no? Nel senso che comunque ci fa gente che va a ascoltare gruppi che fanno cose loro e che comunque hanno voglia di scoprire, prestare attenzione, non escono solo magari per bere la birra, come è anche legittimo fare, certo, però vanno lì con quella di ascoltare un po' di musica che non ho mai sentito. Cioè, io ti faccio questa domanda perché nel solito in una band ci sono i rituali predisposti, oltre ad essere musicisti, uno si interessa del sito, uno si interessa dei contatti, questo voglio dire. Ma ovviamente il grande delle cose, il grosso delle cose lo facciamo io e Charles. Perché siete presenti stasera, esatto, chiaramente, mentre Piotr e Dan hanno un altro ruolo praticamente. Lui da portare una batteria nello studio, ecco, quello è il ruolo. No, hanno un ruolo comunque di sostenerci sia musicalmente che emotivamente, che è ancora forse più difficile. Sì, decisamente importante. 23:37, abbiamo circa una ventina di minuti. Mi pare che ci sia ancora un pezzo in scaletta, vero Sergio? Mi pare la traccia numero 7. Every Aeroplane. I Just Wanna Fly. I Just Wanna Fly, in realtà. Ok, la 7. La 7. La 7, la 7, la 7. Io dormo, vabbè. La 7, la sentiamo e poi ne parliamo un poco, ok? Eccola. Rockwave, l'onda del rock. I just wanna fly, wanna live, don't wanna die. Ce n'è una di brutta in questo disco? No. Infatti. No, assolutamente no, non ce n'è neanche, nessuna di brutta. E sono tutte molto... che prendono immediatamente, è la caratteristica, vero Sergio, di questa band. È una questione circolare, un pezzo circolare questo qua. Cosa dite? Sì, è una specie di... ritornello. Ritornello che si... esatto, un ritornello perenne, hai detto una cosa giusta, che continua, non ossessivamente, nel senso positivo, l'ossessione positiva musicalmente. Esatto. L'ho trovata così, non di minutaggio grosso, come giustamente Charles ha detto, sui 3 minuti, ma 3 minuti quelli sono sufficienti. Sono 1:43. 1:43, pensavo che fosse un po' più lungo. 1:43 va bene lo stesso, cioè veloce. Vuol dire ma... che ti ha rapito dal tempo questa canzone. Esatto, no? Mi ha rapito dal tempo. Veloce, però significativa. Basta, è sufficiente. Sì. Una volta non perché occorre... dire di più quando va bene così? Esatto, non occorre arrivare a minutaggi forti. Ci sono anche quelli, chiaramente. Uno ha deciso di fare 5-6 minuti perché ha deciso, esatto, di fare. Doveva 5-6 dire quelle minuti. Cose in 5 chiaro, minuti. Chiaro. E questo come l'avete inventato sto pezzo velocemente, visto che dura 1:48? Ma boom, è stato uno sfogo di inglese maccheronico suonato su accordi, su un giro d'accordi che un po' mi girava così. Così. Alla fine non saprei bene come nasce. Si suona e si canta e dopo piace. Allora piace. Tu hai citato che trovi di scrivere i testi in qualsiasi cosa capita, non so, un block notes, qualcosa. Io ricordo Finardi che quando in un'intervista di qualche anno fa mi diceva che lui fischiettava, lui andava spesso in treno, fischiettava nel compartimento dove era seduto e fischiettando cominciava su un bloc note a scriversi gli accordi. Sì, non c'erano i telefonini all'epoca. No, esatto. Adesso mi è capitato anche di andare nel bagno al lavoro col telefonino a registrarmi, perché secondo me era un'idea valida. Tutto va bene, non potevo, sì, sì. Non potevo dimenticarla, soprattutto sul grande consiglio di Paul McCartney, cui ho letto in un'intervista, che ha detto registrare ogni volta tutto quello che ti viene in testa. Eh sì, non deve, non deve essere perso, deve sfuggire. Esatto, se dopo sfugge dici... come Carpe Diem. E poi? Sì. Esatto, sì. Dopo non sai com'era, non ti ricordi, dici, ma perché magari... alla fine sono nate tantissime cose, e così, cioè, ricordando un po', registrando, sai, qua e là, qualche idea, dopo che magari sviluppi a casa. Ultimamente anche cantando le specie di ninna nanne a mio figlio Teodoro, che è nato da 5 mesi, mi entrano in testa queste cose che io canto e magari me le canto anche per mezz'ora e mi prendono forma in testa dei ritornelli che mi vengono da provare con la chitarra e alla fine funzionano. Vedi. Un paio degli ultimi pezzi che abbiamo fatto qua e comunque ultimi scritti mi sono venuti in quel modo lì. Magari li rielaboro, vabbè, però anche lì, sì, il fatto di comunque ripetere di continuo una cosa ti fa dare accenti diversi, no? Perché la fai sempre così, ogni volta che la ricanti alla fine è... E poi una cosa un po', anche magari un po' folle, no? Però è ma è in sintonia con la musica che fate, con il genere che fate, col discorso di prima del fare musica per dimenticare un po' i problemi. Esatto. Una cosa che comunque è uno distogliere, no? Dal quotidiano normale, dal programmato, dal... E come diceva Paul McCartney, non bisogna che sfugga, cioè immediatamente recepirla fino a che non lui, è sta... quando si è svegliato, quando l'idea esatto, con l'idea di Yesterday, esattamente, in testa, sì, no? Non so, famoso aneddoto, sì, che certo, piano, lo puoi raccontare, lo puoi raccontare, sì, e, sì. E l'ha intitolata Scramble Eggs, sì, uova strapazzate, esatto, perché alla fine non so, c'aveva un testo, però qualcosa doveva dire per registrarla. È un po' le cose che alla fine capisci, no? Quando... E poi a proposito di Paul McCartney c'è una storia molto simpatica, la raccontiamo in qualche secondo. E lui era in vacanza, non so, nei Caraibi mi pare, e c'era Dusty Hoffman, c'era una cena, e Dusty Hoffman gli ha fatto questa sfida: ti prendo il Times e tu devi leggere un pezzo, non so, una frase del Times, col Times mi fai subito una canzone. Non lo farai mai. Paul McCartney ha preso il Times e ha intonato un pezzo assolutamente di una canzone, leggendo un trafiletto di un articolo del Time. Dusty Hoffman è rimasto così, basito. Ha musicato l'articolo. Immediatamente. Con i tempi secondo giusti. Me dovrebbero leggerlo tutti così il giornale. È una cosa incredibile, eppure era un po' McCartney, mica uno qualsiasi. Vabbè. C'è poco da fare, ma è positivo. Cioè, quindi quando il messaggio musicale arriva, da parte tua, Spino, vai in qualsiasi posto per recepirlo immediatamente, perché lo devi scrivere, se no lo perdi. E quello è essenziale. Charles, succede anche a te sta roba, o no? Madonna, sì, io sono un accanito registratore dei miei versi e fischietti. Cosa vuol dire un accanito registratore? Dei versi versacci. Cioè, registro, sì, insomma, tutto, qualsiasi cosa possa funzionare. Ho questo vezzo del... insomma, per fortuna ci sono i telefonini, comunque a me piace un sacco fischiettare, insomma, quindi fischiettando così ti rifischietti sempre la stessa cosa, la migliori un po' in testa, registri e dopo la provi con la chitarra, no? Ma adesso ci sono i telefonini, sì, ma non è più romantico come una volta. Una volta devi, insomma, te la canti in testa, quando non la stai cantando in testa, anche quando non te la stai cantando, ti veniva in mente alle 8 di mattina al lavoro e fischiarla fino alle 5. È dura, eh. Ma una volta, insomma, lì dopo avevi composto anche una sinfonia, sì, esatto, no? Esatto. Una volta era così, però sì, d'accordo, adesso ci sono gli strumenti elettronici, te la dimenticavi e ti sparavi veramente. Bene, adesso sono le 23:45, abbiamo circa un quarto d'ora. Io ho cercato, mentre tu, Spino, sei andato un momento fuori stanza con Charles, ci siamo messi d'accordo, adesso ho fatto un altro pezzo live, vediamo che cosa, così inventandolo, vabbè, hai detto a microfono spento, possiamo inventare qualsiasi se momento. Se vuoi ti diamo il gazzettino di Padova. Ecco, esattamente. Potete inventare? Sì, ce la fate, sì. O se no, volete riprendere? Se no, facciamo... Summer. mi piace tanto. Facciamo Nothing, non abbiamo tanto. Facciamo Nothing, dai. Facciamo Nothing, dai. Sì, sì, sì. Non l'abbiamo messa su dal disco, sì, abbiamo, dal vivo. Qua. Questo è solo un minuto e 40 di energia propulsiva, però adesso vediamo come la fate qua, in okay. questo momento. Sì. Sì, minuto e 40 nel 40, minuto e 40 mi pare durasse nel disco, era più potente. Poi l'avete fatta in maniera diversa, giustamente acustica, un po' più blanda, ma bella lo stesso, secondo me. È un'idea esatta. Farla un po', chiaramente versione unplugged si deve fare in questa maniera. Sì, è questo il bello, no, della musica. Insomma, si può interpretare e reinterpretare quante volte si vuole. Qua sta il pezzo, la bontà del pezzo. E cosa parla Nothing? Ma come dal nome si può... Negazione totale oppure di niente. Di niente, perfetto. Alla fine parla di sensazioni un po' libere di interpretazione, con un testo un po' anche polivalente, insomma, sì, ognuno esatto. può dargli un po' il significato che crede, sì, a questo nulla, a questa pochezza che può esserci da qualche parte. E l'idea di concludere il disco con questo pezzo come è nata? L'avete sviluppata? Era già previsto così oppure è stata inserita all'ultimo secondo? Ma no, in realtà alla fine ci piaceva perché termina comunque di all'improvviso come una cosa che non puoi comandare. Ah, ecco, giusto, hai detto una cosa perfetta, una cosa che non puoi comandare. Doveva essere così, doveva finire così. Esatto. C'è qualche altra idea per un nuovo presunto album più avanti, secondo voi? Ma più avanti ovviamente ci sarà, però per adesso... Siete soddisfatti di quello che avete sì, fatto? Sì, vogliamo un po' continuare a promuovere questo, anche certo. perché comunque sembra che il momento sia abbastanza favorevole per noi, e vediamo un po' cosa succede. Certo, ma secondo me il disco è... Abbiamo già detto parecchie volte, lo ribadiamo, un disco molto accattivante, si sente subito, immediatamente, non trova difficoltà, però è fatto in una certa maniera, con molta voglia di fare, quello è importante, non è buttato così, no. No, fatto, convince, no? Convincente. Siete stati convinti di fare un sì, pezzo, soprattutto un noi per primi. Soprattutto voi per primi. Adesso sono le 23:50, facciamo una cosa di questo genere. Sentiamo ancora la traccia numero 9 che non abbiamo mai sentita, che era molto bella, molto interessante, secondo me. E da disco stavolta e poi ci salutiamo, ok? D'accordo. Yes. Rockwave, l'onda del rock. people there are here and nowhere. Before the tears are falling in a fantasy, under the rain she gone. Normal people were lost in their old chairs, because the years are falling in a touching feel, under the rain she gone. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Normal People dei The Moon qui su Blu Radio Veneto, ospiti questa sera con noi. Certo. Ciao a tutti. Purtroppo abbiamo finito questa cavalcata di due ore, è stata piacevolissima. Allora adesso subito. Spino, devi ripetere tutti i numeri. Da dopo. Bravo, Da bravo. Allora, cito tutto il resto. Cosa abbiamo imparato oggi? Allora, oggi abbiamo imparato a suonare. E un più a Spino. E, boh, allora ripeto tutti i tuoi riferimenti. Cominciamo con i prossimi concerti che sono venerdì a di questa settimana, quindi esatto, venerdì 3. Il 3, 3 febbraio 3. D'accordo, a Contest al Mattone a Martellago come ospiti Provincia di Venezia, noi Merne. Merne di Martellago. Ah, giusto. Merne di Martellago. Beh, Martellago. Martellago. Chiedo venia. Un po' di sottonomi, no? Sì, sì, non è un... scusate. Comunque diciamo che... Martellago. Suonate in un contest, praticamente. Ok, esatto, come ospiti. Poi ci sono venerdì e lunedì. Venerdì alle 20:30 su Telecapo Istria c'è la trasmissione FS Inferno con noi come ospiti, con intervista e presentazione video. Poi e la replica lunedì su TV Slo 2, che è il principale secondo canale della TV slovena. Tutte queste due puntate si possono vedere in streaming. Bene. Esatto, sì, e poi diciamo, se vogliamo anche dare l'ultimo, il 22 febbraio siamo all'Accademia della Birra musica. A Portogruaro. Della musica. Della birra. Beh, Accademia Music Awards. Ok, questo per quanto riguarda gli appuntamenti. I nostri contatti sono... MySpace, YouTube e Facebook, barra The Moon Rock Band, dove appunto si può trovare, si può chiedere informazioni sul disco, sulle date, le foto e tutto il resto, insomma, che ormai tutti sanno. E salutiamo anche Dan e Piotr che ci hanno sentito. Ovviamente, ciao Dan e ciao Piotr. Ciao. che fanno grazie parte per l'onnipresente sostegno morale. Esattamente. Piotr, che è il batterista, e Daniel, il bassista della band. Ok, abbiamo finito, ragazzi. Charles e Spino qui presenti l'ora stasera stringe. Per The Moon. Ma mezzanotte noi ci trasformiamo in chitarre. Bene, è positivo. E ci fate sentire adesso il pezzo più panchettaro dell'album, secondo molti critici. Vedrai che si trasforma. Bene. Sentirei come si trasforma. Il titolo del pezzo? Take Care, Part 1. Ok, Sergio, salutiamo. Ciao Sergio. Ciao carissimi, ciao. Gino? Franco, Paolo. Ci sentiamo domani con Agostino, con Gilda Regenzi, la novità del suo nuovo album che presenterà qui a Blu Radio Veneto dalle ore 21. Thank you, yes. People. Goodbye. Buonanotte a tutti, grazie. So far away from me. Without you, babe, I can do it. Come on, let me see all the good times spent.